à côté Rocroi del villaggio, ci diceva Rocroi, e abitava qui, nel villaggio, nel sud. E allora, a cosa era per Pascas? E abbiamo invitato un grande della valletta, ad Inna. E come abbiamo cavato le scavas, abbiamo andato in Cavril e di getta la buona fare scorrere anche il Cavril per Inna. E sembo morire la messa. E poi la buona di getta, ma troppo dice, come lo buio che il Cavril. Allora, così fai, eh? Come sono stato al paion della Gleisa, prendo il cavizio di Vases e monta la Gleisa, e se metto al fondo, la me lo cavizio là, sui Vases, e a un momento la messa si dice in latipo, a un momento nato, un cavizio via, e gli dico, orate frates, e allora la buona, invece da buona me lo cavizio, e gli dico, e tu Margarita che tenes lo cavizio? Venne la metà in sauce, l'altra metà rostita, e tutto il mondo crepondette, amen.